Il tuo problema è un mio problema. Leggo nella Bibbia in Neemia capitolo 1 versetti 6-7. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Non è un mio problema, sono affari tuoi. Normalmente reagiamo in questo modo quando qualcuno si trova in una situazione difficile a causa delle proprie mancanze. D'altra parte, perché dovremmo prenderci in carico un problema del quale noi non siamo responsabili? Tuttavia, leggendo la Bibbia, ci si accorge che i grandi uomini di Dio non hanno mai ragionato in questo modo. Neemia ne è un esempio. La risposta che aveva ricevuto da alcuni uomini provenienti da Giuda era davvero sconfortante. Erano passati circa 15 anni dal ritorno di Esdra a Gerusalemme, ma le mura erano ancora in rovina. A quei tempi le mura erano molto importanti per le città, perché una città senza mura era facilmente attaccabile. Gerusalemme era dunque una città debole, facilmente soggiogabile. L'interesse sincero di Neemia si manifestò in particolare nella sua preghiera, nella quale si percepisce chiaramente che il problema del suo popolo è un suo problema. Egli nella sua preghiera non dice che i suoi connazionali hanno peccato, ma dice «abbiamo peccato». Neemia esprime quindi il peccato di Israele come un peccato suo e della sua famiglia. Egli non prende le distanze dai colpevoli, ma si immedesima in loro, si sente parte del problema. Neemia era nato dopo la deportazione e non era direttamente responsabile di ciò che i suoi padri avevano fatto. Ciononostante, nella sua preghiera, egli confessa il peccato del popolo di cui egli fa parte. Non se ne tira fuori. Troviamo lo stesso atteggiamento in altri grandi personaggi come Esdra, Daniele e Mosè. Nel nostro mondo, dove il singolo è al centro di tutto, ci sembra strano un atteggiamento del genere. Noi avremmo pregato chiedendo al Signore di perdonare i nostri fratelli che avevano peccato, ma non ci saremmo sentiti chiamati parte in causa. Eppure la Chiesa è un corpo e il problema di una singola parte del corpo coinvolge tutte le altre membra. Se la mano e il piede sbagliano, le conseguenze ricadono su tutto il corpo. Nello stesso modo, il peccato, la ribellione, rallentano il nostro cammino comunitario, non solo il cammino del singolo. Per questo motivo il peccato di un membro non dovrebbe essere solo affar suo, ma dovrebbe coinvolgere il resto del corpo, nell'intercessione presso Dio. Neemia lo aveva capito molto bene. Come Neemia, voglio imparare sempre di più a piegarmi e piangere, quando mi rendo conto che il popolo di Dio è nella miseria a causa del peccato. Non posso cavarmela dicendo «non è un mio problema», perché Dio non ci ha solo salvati come singoli, ma ha voluto che vivessimo come fratelli. E se i miei fratelli si allontanano, è mio compito avvertirli ma anche piegarmi, pregare e piangere per il popolo di cui anche io faccio parte. Non posso tirarmene fuori.